Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Essere più attenti e avere fiducia nel futuro del paese. Siamo pieni di gente che dice non ce la farete mai. Dice vai, ora riparte con la storia del gufo. No, cambio, la storia del calabrone, cioè di una cosa che non dovrebbe stare in piedi, non dovrebbe volare, eppure vola e punge anche ogni tanto e fa anche male. Perché? Perché è capace comunque di vincere e di violare tutte le regole del pessimismo. Devo dire, un animalista Renzi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha parlato moltissimo in tempi recenti e passati di gufi, adesso parla del calabrone. Pare da alcune agenzie che questo pomeriggio abbia anche nominato i conigli, anzi un coniglio, dicendo io non scappo davanti alle difficoltà, non sono un coniglio. Poi non è stata ritrovata questa frase, diciamo, non è pervenuta, però diciamo che ha una certa varietà etologica nel suo linguaggio. Parleremo naturalmente di questioni politiche e poi ancora un occhio attento sul maltempo che si sta spostando verso centro-sud, ha colpito in particolare Roma, ma c'è l'allerta anche in Maremma. E poi parleremo anche di un'applicazione, se ci riusciamo con il tempo, che riguarda WhatsApp, a proposito di social network. Io vi ricordo sempre che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, o anche per i messaggi il 349-238-6666. Dicevo, a proposito di social, di tutte queste tecnologie di comunicazione, c'è una cosa che riguarda WhatsApp che ha fatto arrabbiare moltissimi, quasi tutti. Vediamo se poi abbiamo tempo di parlarne. Mentre aspetto i vostri messaggi, io vi riepilogo la giornata. Economia e crisi, l'OCSE avverte, l'Eurozona si ferma, rischio per la crescita mondiale, l'Italia in fondo alla classifica del G20. Renzi dice, di fronte alle crisi non scappo, non faccio il coniglio, oggi è stato contestato alla nuova sede dell'Alcatel a Vimercate. Le nomine del Parlamento per la consulta, eletta Silvana Sciarra al Consiglio Superiore della Magistratura, passa Zaccaria, indicato dal Movimento 5 Stelle. Eni, accordo raggiunto su Gela, salvi i posti di lavoro. ISIS, lettera segreta di Obama a Khamenei per lottare insieme contro il movimento integralista. A Parigi 200 persone sarebbero state arrestate per legami con l'ISIS. Maltempo, grandine e vento forte su Roma, disagi un po' in tutta Italia e per il calcio Europa League. Partiamo quindi con la pagina economica. Francoforte, Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, va avanti nonostante le indiscrezioni, tassi invariati e riflettori oggi tutti puntati sulle sue parole. Sentiamo. The Governing Council is unanimous in its commitment to use in additional unconventional instruments. Fino a 1.000 miliardi di euro di nuova liquidità all'interno dell'economia dell'Eurozona. Il presidente della BCE, Mario Draghi, nel giorno in cui Francoforte mantiene i tassi invariati al minimo storico, conferma gli obiettivi stabiliti a settembre e annuncia che la Banca Centrale Europea è unanimemente pronta a ulteriori misure non convenzionali, anche se quelle già prese dovrebbero portare l'inflazione gradualmente verso il 2%. Per Draghi, se rimaniamo entro il nostro mandato, possiamo usare una varietà di strumenti, poi chiarisce, grazie agli acquisti di covered bond e ABS e ai prestiti TLTRO, la BCE si aspetta di far crescere il suo bilancio verso i livelli di inizio 2012. Sullo sfondo una situazione economica nell'Eurozona che, anziché migliorare, come più volte ribadito negli ultimi mesi, peggiora. Si è assistito a un indebolimento della crescita e ci sono segnali che indicano una revisione al ribasso delle previsioni economiche, ammette Draghi, secondo cui sulla crescita pesano l'alta disoccupazione e i rischi geopolitici. Il presidente della BCE è attento a preservare l'immagine di un consiglio direttivo unito. Non c'è una linea di divisione nord-sud Europa all'interno del board, dice. È abbastanza normale che vi sia disaccordo su alcune cose, succede ovunque, chiosa il presidente BCE. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a preoccupare restano comunque i dati. Per l'OCSE l'Italia è penultima tra i paesi del G20, fa peggio solo la Russia, peggio di noi. Eurozona a rischio di stagnazione. L'Europa non sta ancora bene, sta rallentando fino a fermarsi e rappresenta un rischio per la crescita mondiale. A pesare soprattutto la debolezza di Germania, Francia e Italia, ma la ricetta per migliorare c'è. La BCE deve iniziare a comprare asset sul mercato, compresi i titoli di Stato. E questo è in sintesi il quadro dipinto oggi dall'OCSE, che mostra una situazione tanto difficile quanto chiara. Nel 2015 l'Eurozona salirà dell'1,1%, gli Stati Uniti di oltre il 3%, la Cina del 7,1%. 1%. E l'Italia? Il PIL per il prossimo anno è stato rivisto al rialzo da più 0,1 a più 0,2%, più 1% nel 2016, ma si colloca al penultimo posto tra i paesi del G20. All'ultimo posto la Russia, ferma a 0. Le cifre pubblicate oggi sono tristi perché indicano che l'Unione Europea è un problema per il resto del mondo, ma incoraggianti perché se l'eurozona cambia si torna a crescere. Così ha cercato di consolarsi il premier Matteo Renzi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto a scuotere l'Europa c'è una maxi evasione in Lussemburgo, il cui primo ministro dal 1995 al 2013, primo ministro di Lussemburgo, è stato l'attuale presidente della Commissione Europea Juncker. Si tratta del caso LuxLeaks, la maxi evasione legale in Lussemburgo. Coinvolte sono 300 aziende mondiali, anche italiane. Il neo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è sotto immensa pressione politica dopo che una serie di giornali ha pubblicato documenti riservati dai quali emerge che il Lussemburgo negli ultimi 10 anni ha concesso generosi accordi fiscali a centinaia di multinazionali. Ai tempi Juncker era primo ministro lussemburghese. In alcuni casi il reddito trasferito dalle imprese nel Lussemburgo sarebbe stato tassato con aliquote inferiori addirittura all'1%. In Commissione europea ha ricordato le indagini ai danni del Lussemburgo in campo fiscale e ha assicurato che intende continuare a far rispettare le regole sugli aiuti di Stato, l'unica arma a sua disposizione in un settore, quello fiscale, che rimane competenza nazionale. Il portavoce dell'esecutivo comunitario, Margaritis Skiras, ha insistito per porre la questione in termini di politiche comunitarie, evitando domande sulle responsabilità personali di Juncker. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Parliamo adesso di Renzi, della sua giornata milanese, perché è stato all'Alcatel di Vimercate vicino Milano, e poi il discorso in fiera tenuto all'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Questa sera sarà a una cena particolare di cui parleremo a breve. Renzi dal palco dell'Alcatel di Vimercate sfida l'Unione Europea: se non siete un covo di burocrati liberate i fondi. Una visita, quella del Presidente del Consiglio, non priva di contestazioni. Infatti all'arrivo della sua auto blu, staff della presidenza del Consiglio, sono state lanciate uova dai lavoratori che protestavano contro i circa 550 esuberi previsti dall'azienda. Allora sentiamo Renzi anche a proposito delle uova. Mi scatta da ridere dicendo: se vieni qua ti tiriamo le uova. Io sono pronto a fare le crepe, le adoro le crepe, le ho prese oggi, le continuerò a prendere nei prossimi giorni le uova. Quando c'è una situazione di crisi occupazionale, il Presidente del Consiglio deve fare il sindaco, non deve fare il tecnico, non deve fare quello che scappa, non deve fare quello che si nasconde, non deve fare quello che sta chiuso nel palazzo, deve fare quello che si mette in gioco, perché noi siamo una comunità. Una buona notizia che arriva dall'ENI: accordo fatto su Eni Gela in Sicilia davanti alla ministra Guidi, la raffineria diventa green, salvi i posti di lavoro. Questo almeno è quanto annuncia il portavoce della ministra Guidi, Enrico Romagna Manoia, nel suo proprio profilo Twitter. E poi parliamo delle nomine in Parlamento. Sembra che lo stallo finalmente non ci sia più. Per la Consulta c'è accordo, il Parlamento vota su Sciarra Bariatti. Ci sono voluti 21 scrutini e quasi 2 mesi di tempo. Alla fine il Parlamento ce l'ha fatta a nominare uno dei 2 giudici mancanti della Corte Costituzionale ed un membro del CSM. Disco verde allora dell'Aula di Montecitorio per Silvana Sciarra, che ha incassato 630 voti, 60 in più dei 570 richiesti. Sciarra, indicata dal Partito Democratico nell'accordo con Nuovo Centrodestra e Forza Italia, ha potuto contare anche sui voti del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il sì dopo il via libera della consultazione online. Non ha avuto lo stesso successo Stefania Bariatti, che non ha raggiunto il quorum per l'elezione alla Corte Costituzionale. La candidata alla Consulta di Forza Italia si è fermata a 493 voti. Alla bocciatura della Bariatti avrebbe contribuito, secondo alcune ricostruzioni, una fronda interna alla stessa Forza Italia. Alcuni parlamentari azzurri avrebbero così votato scheda bianca, almeno 45 poi gli assenti. Partita chiusa invece positivamente per il CSM con la nomina di Alessio Zaccaria, indicato dal Movimento 5 Stelle. Questi ultimi esulti risultano è la vittoria del nostro metodo. Soddisfatti i presidenti di Camera e Senato, dal Parlamento prova di responsabilità, scrivono Boldrini e Grasso. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si cerca una mediazione anche sul fronte della riforma della legge elettorale dopo il nulla di fatto ieri in un incontro di più di due ore tra Renzi e Berlusconi. Quindi vediamo come procede questa mediazione. La partita dell'Italicum si intreccia con quella del Quirinale mentre il Movimento 5 Stelle segna il primo gol. Il ministro Maria Elena Boschi avverte Forza Italia dopo lo stop di Silvio Berlusconi alla nuova legge elettorale. Mi auguro che Forza Italia mantenga gli impegni perché noi andiamo avanti lo stesso. Il partito azzurro però si compatta contro l'accelerazione voluta dal premier Matteo Renzi che alimenta sospetti di urne anticipate. Renato Brunetta replica: non siamo fessi, le preferenze erano escluse, ma c'è il fronte nella maggioranza. Angelino Alfano chiede governabilità e rappresentanza, ovvero proprio le preferenze osteggiate da Forza Italia, preferite anche dalla minoranza Dem. Ma dalla Camera emerge una nuova possibilità dopo la fumata bianca su CSM e Consulta grazie all'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle. Il cavaliere sembra sempre più all'angolo nel caso in cui non si dovesse andare ad urne anticipate, ma si dovesse eleggere il nuovo capo dello Stato se Giorgio Napolitano decidesse di dimettersi a breve. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo potrebbe essere, poi magari cerchiamo di capire anche quali sono i retroscena. Tra l'altro volevo dirvi, tra gli argomenti di questa sera che tratteremo, se volete esprimere le vostre opinioni al 349-238-6666 con gli sms oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, questo diciamo voci di corridoio che in realtà sembrerebbero sempre più concrete della volontà di Renzi di andare a elezioni verso la primavera. Sareste d'accordo? Forse è proprio questa la paura di Berlusconi nel fatto che non sono arrivati ancora a un accordo sulla legge elettorale, forse perché ha paura Berlusconi che Renzi voglia effettivamente andare a elezioni anticipate. Voi sareste favorevoli che si votasse a marzo? Intanto procediamo, parliamo di maltempo. È stata questa una giornata di attesa, di paura per Roma. C'è stata una bomba d'acqua, grandine, pare che le condizioni, la situazione sia meno peggio di quello che si pensasse, tanto che domani dovrebbero essere aperte le scuole a Roma, però ne parleremo dopo di maltempo. Adesso spostiamoci sull'estero. Barack Obama ha scritto una lettera segreta alla guida suprema iraniana, l'Ayatollah Al-Khamenei, a metà dello scorso mese, parlando di un interesse comune nella lotta contro i jihadisti dell'ISIS in Iraq e in Siria. Lo rivela Wall Street Journal e nella lettera il presidente americano esorta anche il leader religioso verso un accordo sul nucleare. Di nuovo in Italia, buona notizia per il Teatro dell'Opera. In cambio di un accordo condiviso per disegnare il contratto integrativo, il sovrintendente Fuertes proporrà alla Consiglio di Amministrazione di ritirare il licenziamento collettivo di orchestra e coro. Enza Lodo ha intervistato il segretario generale del Lazio CGL Alberto Manzini. Il sovrintendente ha affermato che si impegnerà a far ritirare i licenziamenti. In cambio di cosa? Dove si pensa di fare tagli quindi? Certamente si interverrà sulla organizzazione del lavoro di tutto il teatro e certamente si interverrà sul contratto integrativo, ma abbiamo intenzione dentro il ragionamento dell'organizzazione del lavoro di trovare soluzioni per aumentare la produttività e di conseguenza quello che oggi si taglia, alcune indennità, alcune voci del contratto integrativo, possono essere recuperate con un modello produttivo diciamo diverso. E occupiamoci anche degli scavi di Pompei che domani saranno aperti dopo gli oltre 1100 turisti in attesa davanti ai cancelli chiusi a causa dell'agitazione dei dipendenti. E la situazione per fortuna si è sbloccata grazie a un tweet, a quanto vale il tweet del ministro per i beni culturali Franceschini. I sindacati hanno fatto un passo indietro dopo la decisione della soprintendenza di anticipare all'11 novembre l'incontro previsto invece per il 19 sulle linee guida su sicurezza e vigilanza. E adesso è il momento del calcio con squadre italiane in Europa League. Giovanni Capuano, buonasera. Ciao Giovanni. Sì, buonasera, sì, è serata di Europa League, due si sono già concluse, due sono appena iniziate, fin qui non è andata benissimo per le italiane. Cominciamo dalle partite che si sono già concluse, circa un quarto d'ora fa con il pareggio 1-1 dell'Inter in Francia contro il Saint-Étienne, una partita che i nerazzurri avevano sbloccato nel primo tempo con Dodò e giocando tra l'altro benissimo nella prima frazione di gioco, avrebbero meritato anche un vantaggio superiore. Poi nella ripresa è arrivato il pareggio subito di Mustafa Sala sull'ennesimo errore difensivo di Vidic e da lì la partita è letteralmente cambiata, ci sono state parate importanti di Carrizo, Inter che è andata molto in sofferenza, risultato però che blinda quasi la qualificazione. Fra 3 settimane basterà un punto in casa contro il Dnipro per essere ai 16esimi di finale e contro i punti ci sarà la certezza del primo posto. Il Torino invece ha perso in condizioni meteo davvero proibitive in Finlandia 2-1 contro l'Helsinki, tutto nella ripresa, Bali e Moren e poi nel finale il gol di Quagliarella che però non è bastato per riaprire la gara, si è giocato sotto una fitta nevicata su un campo assolutamente ghiacciato, c'è stato anche l'infortunio dell'arbitro, è stata insomma una partita davvero difficile e soprattutto una partita che complica il cammino del Torino in questo girone di Europa League. Toro che in questo momento è secondo a un punto del Bruges e Toro-Bruges fra 3 settimane sarà certamente la gara decisiva. In campo invece da poco più di 10 minuti ci sono al San Paolo di Napoli, Napoli Young Boys, risultato ancora fermo sullo 0-0 e Benitez che sta facendo un turnover mostruoso con 8 cambi rispetto alla squadra che ha battuto la Roma, cambi soprattutto davanti con Higuain, Hamsik e Caleon che non giocano, però è un Napoli che sembra aver approcciato bene questa gara e 0-0 anche Fiorentina-PAOK Salonico, che è la quarta gara che vedo un'italiana impegnata, c'è il ritorno dal primo minuto di Gomez che è l'acquisto di un anno fa che poi per infortuni vari non è mai stato in campo con continuità, ora ci prova per la terza volta. Gomez tra l'altro è anche stato pericoloso nei primissimi minuti di questa partita che però è ancora ferma sulle 0-0. Grazie, poi capiremo come procedono queste partite, intanto vedo velocemente come procedono i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note, ce ne sono già diversi, sia al 349-238-6666, se siete favorevoli evidentemente, eventualmente, scusate, elezioni anticipate, come si dice che voglia Renzi. Giorgia, qualcuno dice no, non era Giorgia, era Lorella che dice ma a chi la diamo la nostra fiducia, e poi invece Giorgia scrive a proposito del Calabrone, la metafora con cui vi ho fatto sentire Renzi all'inizio, dice il Calabrone è un aneddoto della Moratti copiato da Renzi, quindi Renzi è anche copione, almeno secondo Giorgia. Notizie che adesso vi riepilogo brevemente, intanto leggo ancora uno dei vostri messaggi sulle possibili elezioni anticipate a cui vorrebbe, aspirerebbe Renzi secondo alcune voci. Salvatore dice sì, sono favorevole che a marzo si vada alle elezioni, così non si può continuare. Ma andiamo di nuovo alle notizie in primo piano oggi. Renzi dice che il patto del Nazareno scricchiola, ma io non scappo, dice ai sindaci all'assemblea del Lanci, poi parla di una local tax dal 2015, intanto c'è stato un lancio di uova oggi, la sua visita all'Alcatel di Vimercate. L'accordo sulla consulta regge a metà perché passa solo Sciarra, sale la tensione sull'Italicum, sulla riforma elettorale, la ministra Boschi dice avanti anche senza Forza Italia. Draghi riunisce il board della Banca Centrale Europea, parla di nuove misure non convenzionali e l'OCSE avverte che l'Eurozona non cresce, che è un rischio per tutto il mondo. Bomba d'acqua su Roma, allarme rosso in 8 regioni, grandine in città. E poi prima grana per Juncker, scoppia il caso LuxLeaks, imbarazzo per un'inchiesta su patti fiscali in Lussemburgo, di cui è stato per anni il primo ministro. Leni di Gela diventa verde, salvi i posti di lavoro e poi decolla la nuova Alitalia con Montezemolo che sarà presidente. E poi doppia spunta blu di WhatsApp, poi capiremo di cosa si tratta, polemiche sulla privacy, questo è uno degli argomenti che dovremo trattare più tardi. Adesso invece parliamo brevemente, visto che tra poco parleremo anche di politica, come la crisi colpisca anche i partiti. In che senso? Si parla di tagli ai finanziamenti pubblici, che insomma, se andai tagli così drastici, però tra questo, tra il calo dei tesseramenti, tra il fatto che magari feste come la festa dell'unità non bastano più, insomma, raccogliere fondi con tra salsicce e tortellini, allora che cosa ha deciso Renzi in questo cambiamento di pelle del partito? Di organizzarsi un po' sul modello americano, cioè di fare delle cene, del fundraising, cioè della raccolta di fondi, questo attraverso delle cene cui invitare imprenditori e manager, e quindi una cena VIP che ha organizzato per stasera a Milano nel ristorante The Mall di Milano per raccogliere fondi a sostegno del PD, e poi domani ce ne sarà anche una a Roma. Ci sono 500 invitati, 500 posti a disposizione in questo ristorante, a ognuno dei presenti è richiesto un bonifico di almeno 1.000 euro e fra le persone che sono state invitate, che anzi in questo caso fornirà anche i vini, c'è Marilisa Allegrini, imprenditrice nell'ambito vitivinicolo, chiamata la signora dell'Amarone, vino simbolo della Valpolicella. Pronto? Pronto? Sì. Marilisa Allegrini, buonasera. Buonasera. Sono Roberta Giordano di Radio 24. Sì. Le volevo dire, Marisa Allegrini, lei fornirà il vino stasera alla cena famosa di Renzi? Sì. Sì, che vino è? Sono due i vini, uno è il Palazzo della Torre. Vino rosso? Sì, che proviene dal vigneto che circonda la Villa della Torre, la nostra sede aziendale. E poi il vino bianco invece è il Soave. Il Soave. Senta, ma lei ha anche idea di che tipo di menù innaffieranno questi buoni vini che porta lei? Ma guardi, so che il nostro ufficio aveva curato l'abbinamento con il catering, però io personalmente non sono informata sul menù della serata. Presumo che sia un piatto di pesce o di verdura e un piatto di carne, vista la scelta di fare un bianco e un bianco della Valpolicella. Quante bottiglie berranno? Perché mi pare che ci siano 500 posti a disposizione in questa cena. Noi... No, scusi, poi abbiamo anche, come per il finale, anche l'amarone. Immagino, l'amarone non poteva mancare, no? Lei è chiamata la signora dell'amarone, se non erro, e quindi non potevano portare l'amarone. Ma quante bottiglie... Mi scusi? Ci sarà un... Quante bottiglie fornisce lei per questa cena di 500 persone? Calcola una bottiglia per 3-4 persone, quindi bisogna sempre, non si può rimanere senza vino, no? E certamente. Siamo alle nozze di Cana. Che figure si potrebbero fare altrimenti? Senta, ma il vino rosso di cui parlava a cosa si abbina meglio? Quindi lei diceva naturalmente il rosso tradizionalmente alla carne, il bianco al pesce. Che tipo di carne potrebbe essere per un vino così? Allora, un vino robusto? Questo è un vino molto... particolare, che viene prodotto con una tecnica utilizzando una parte di uve passite, quindi un vino morbido, rotondo, quindi si abbina a di medio corpo, invecchiato per 18 mesi in legno, quindi si abbina a piatti di carne non particolarmente pesanti, nel senso non piatti grassi, però piatti con riduzioni fatte o con lo stesso vino o con altri vini rossi. Cioè, il concetto è che siamo da cittadini sostenendo il Presidente del Consiglio, perché in un momento difficile come questo per l'Italia noi ci sentiamo di esserci e speriamo che il suo progetto possa andare avanti e possa portare l'Italia fuori da questo circolo vizioso che ci sta veramente affossando un po' l'Italia, no? Noi aziende del vino abbiamo mercati esteri e quindi siamo un'isola felice, diciamo, però io mi sento molto sensibilizzata ai problemi di disoccupazione, ai problemi economici generali, e quindi per questo io mi sento di sostenere questa cosa. Bene, la ringrazio intanto. Allora, buona cena. Grazie, buonasera. Dottor Salegrini, grazie, buonasera. Quindi insomma, diciamo che anche i partiti cercano nuove misure, nuovi modi per raccogliere i fondi. Penso che non avrà problemi di questo tipo Renzi né oggi a Milano né domani a Roma. Ma adesso andiamo su questioni grattacapi anche a cui deve pensare Renzi. Ne parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto. Buonasera. Ciao Alberto. Allora, abbiamo sentito di questi dati, abbiamo parlato da BCE, abbiamo sentito l'Ocse che ha detto nel suo rapporto sull'economia, l'Economic Outlook, ha detto: nonostante alcuni dei paesi membri stiano cominciando a risalire la china, nel suo insieme la zona euro sta rallentando fino a fermarsi e rappresentare un rischio rilevante per la crescita mondiale, con la disoccupazione che resta alta e l'inflazione persistentemente lontana dall'obiettivo. Chiedo scusa, ma sono sempre questa bronchite che prosegue inalterata. E allora sentiamo Renzi a proposito di questi dati preoccupanti dell'Ocse, che cosa ha detto. Noi non abbiamo i dati di oggi, i dati dell'Ocse che dicono che l'Eurozona è il problema della mancanza di crescita dell'economia mondiale. Sono molto tristi da un lato e, lasciatemela dire, incoraggianti dall'altro. Incoraggianti sì, perché dimostrano che se l'Eurozona cambia, può tornare a crescere anche l'economia mondiale. Ma come può cambiare l'Eurozona se non investendo sull'innovazione, sul talento, sulla capacità di investire sulla ricerca, sui prodotti di altissima qualità? Ecco perché noi oggi in Italia stiamo combattendo una battaglia perché l'Europa cambi. Insomma, Renzi è bravo a proposito di uova a rigirare la frittata o vedere il bicchiere mezzo pieno quando dice sì, è un dato negativo questo dell'Ocse che l'Eurozona rischia di frenare la ripresa mondiale, ma anche positivo perché significa che dipende da noi, quindi se noi cominciamo a crescere, a rimboccarci le maniche, così ha detto Alberto Rioli. E poi è tornato su Twitter a ribadire la sua posizione sull'Europa, no? Abbiamo sentito in questi giorni il battibecco con Juncker, una gang di burocrati non lo siamo, ha detto Juncker, lui ha detto no, io in realtà non ho mai detto questo. Sentiamo anche questo passaggio. Noi non abbiamo voglia di fare le polemiche con i vertici europei, noi non stiamo lamentandoci di ciò che accade a Bruxelles. Io ad esempio non ho mai detto che a Bruxelles la Commissione è un covo di burocrati, però ora che l'hanno detto loro mi fa quasi pensare l'idea, perché se la Commissione vuole non essere il luogo della burocrazia, bene, ce l'ha una occasione di dimostrarlo concretamente. Liberi le risorse per l'innovazione, la tecnologia, la banda larga, i prodotti di alta qualità tecnologica, le liberi dal computo del patto di stabilità. Quindi Alberto Rioli, da una parte i dati dell'Ocse e i dati che insomma conosciamo, dall'altra è la capacità di rispondere di battuta e non mai colto in fallo Renzi quando gli si lancia un'accusa, oppure effettivamente dice cose che si possono realizzare, che devono essere concretizzate? No, lui dice cose con grande abilità dialettica, è una specie di Roberto Baggio della battuta e del dribbling verbale, diciamo così, perché senza dubbio ha utilizzato la retorica dell'ideogramma cinese della parola crisi, da una parte catastrofe e dall'altra opportunità, oramai è una cosa abbastanza abusata. È pur vero che l'Ocse ha leggermente rialzato le stime del prodotto interno lordo italiano nel 2015 a più 0,2, perché prima le classificava più 0,1, ma siamo ben lontani dal più 0,6 che invece ha cifrato il governo, quindi questo fa capire che se per caso la crescita non è quella prevista, chiaramente anche tutto il contesto del quadro macroeconomico, delle tasse, dei tagli e quant'altro non sta in piedi, e quindi questo è molto pericoloso. Non a caso Renzi insiste, alza un po' la palla proprio sul fronte europeo, perché è da lì che devono venire le risorse per far ripartire tutta la zona dell'euro, che dell'Eurolandia e non solo Eurolandia, perché come si è visto dai dati Ocse è uno dei punti deboli, diciamo così, dello sviluppo dell'economia mondiale, perché l'Europa è il grande malato rispetto agli altri blocchi macroeconomici. Quindi ha fatto bene a ribadire in quella formula appunto da dribbling verbale che è l'Europa che deve sbloccare i fondi e togliere dal computo del patto di stabilità. Questo aiuterebbe molto anche l'Italia, chiaramente, perché utilizzare le forme di i denari per gli investimenti e togli dal calcolo del deficit ci aiuterebbe a evitare quella procedura di infrazione che, se le cose non andranno come previsto, probabilmente diventerà pressoché inevitabile, perché siamo a ridosso del 3%, come ci ha fatto capire ieri Moscovici, ci hanno fatto capire ieri Moscovici e Katainen, e quindi con l'Europa non possiamo scappare troppo. Con l'Europa, con la minoranza PD invece, perché oggi è stato detto da vari deputati della minoranza, tra cui Boccia, Civati, Cuperlo, è necessario approvare la legge di stabilità prima di iniziare il voto alla Camera sul Jobs Act. Anche questo è, questa qui è una classica tattica parlamentare, perché vogliono guadagnare tempo per aumentare lo spazio appunto per la mediazione politica sul Jobs Act. Invece Renzi ha fatto capire chiaramente che vuole che venga approvato anche alla Camera la stessa formulazione del Senato, e quindi che probabilmente chiederà la fiducia, in modo da arrivare entro fine anno con la cornice della delega pronta ed all'inizio del prossimo anno, magari con un semplice decreto ministeriale, per esempio, cominciare a introdurre il contratto a tempo indeterminato a garanzie crescenti. È un progetto ambizioso, ambizioso anche all'interno del PD, perché alla Camera i numeri sono un po' più ballerini che non al Senato, e la componente, diciamo così, parasindacale dentro il PD è abbastanza forte, quindi sta puntando a modificare il testo della della delega, inserendoci appunto i contratti a tutele crescenti, vincolandole proprio esplicitamente alla nuova formulazione dell'articolo 18, di cui oggi non c'è traccia invece nel testo che è stato votato dal Senato. A proposito di Cottarelli, con il quale evidentemente c'è stato un congedarsi forse non così positivo, il famoso commissario della Spending Review, ha detto oggi Renzi di lui: la cosa più divertente della Spending Review è stato il primo incontro con Cottarelli, che ha proposto di tagliare 100 milioni di euro restringendo la fascia di illuminazione dei comuni. Io ho detto: così crea un allarme sociale pazzesco, perché la prima volta che succede qualcosa nel vicolo buio il danno sociale è nettamente superiore al risparmio. Questa è la differenza tra chi ha fatto il sindaco, evidentemente si riferisce anche a se stesso, e di chi fa la spending da tecnico. La frecciatina ha lanciato a Cottarelli prima di salutarsi. Piuttosto pesante, diciamo, non è conosciuta la versione di Cottarelli, perché no. In questo momento probabilmente non ha nemmeno interesse a polemizzare perché ha chiuso questa partita. Mi ricordo che volevano spegnere le luci anche col governo Monti, che io ero molto contraria, perché anche a Milano so bene cosa significa girare anche a tarda notte se non c'è la giusta illuminazione. Certo. Senti, oggi ci sono state le nomine in Parlamento, quindi lo stallo si è un po' sbloccato, c'è stata un'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle sulle elezioni per la consulta e anche per il CSM, cosa che ha fatto preoccupare forse un po' Berlusconi e Forza Italia, che già ieri era stato piuttosto rigido nell'incontro che hanno avuto di oltre due ore a Palazzo Chigi, Renzi e Berlusconi, per decidere insomma sulla legge elettorale. Sappiamo che non c'è stato un esito positivo, perché Berlusconi sembra che fossero d'accordo su tutto, ma alla fine non sono usciti con un vero accordo, pare perché Berlusconi ha paura che Renzi possa voler fare pressing sulla legge elettorale, una riforma fatta il più presto possibile per poter andare a elezioni anticipate. Sentiamo allora oggi che cosa ha detto, sempre a Lanci, durante l'assemblea dei comuni, a proposito del patto del Nazareno. Cioè, io parto da questo presupposto: siccome mi fido di te sindaco, tu sindaco fai quello che credi, metti la tassa dove la vuoi mettere, ne rispondi se la alzi troppo, perché è chiaro che se il sindaco Bianco a Catania la porta all'1% e il sindaco Perrone a Lecce la porta allo 0,1%, sarà il sindaco, vabbè, ho capito Enzo, non arrabbiare, sarà un'apertura a Forza Italia, già c'è il patto del Nazareno che scricchiola, almeno un'apertura fammela fare, il altro che scricchiolo. Insomma, l'ha detto un po' a latere questo patto che scricchiola, ma così sembrerebbe. Ti leggo velocissimamente alcuni messaggi, poi mi dici cosa pensi di queste eventuali elezioni anticipate. Lorella che dice: a chi diamo la nostra fiducia? Sempre se abbiamo la fiducia di qualcuno, visto i tempi. Salvatore: sì, sono favorevole che a marzo si vada alle elezioni, perché così non si può più continuare. Gianfranco dice: subito, con mille o. Emanuela: secondo me Renzi sa che se si va al voto a breve tempo lui è il meno peggio, ci tiene ad andare al voto presto in modo da avere facile una legittimazione dalle urne. Hermes dice: Renzi vuole incassare subito la stock option che ha ottenuto in questi mesi, c'è da fare del lavoro sporco e se tocca a lui farlo poi non lo rieleggono più. Che dici tu, Alberto? Beh, no, sono osservazioni acute, effettivamente. Oggi non c'è dubbio che però da un punto di vista politico è una giornata importante, perché si è concretizzata nei numeri della votazione per il giudice della Corte Costituzionale, per il membro del CSM, è una nuova alleanza fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Paradossalmente il vecchio sogno bersaniano, diciamo così, oggi ha trovato una concretizzazione. Probabilmente ancora solo un segnale tattico, anche perché Grillo la spiega in un modo, Renzi naturalmente la spiegherà in un altro, però non c'è dubbio che Renzi ha prospettato a Berlusconi un'alternativa evidente, diciamo applicando uno schema della vecchia politica andreottiana dei due forni, questo palesemente, se non vengo con te vado con l'altro, e quindi per un momento posizione forte per Renzi. Alberto Rioli, io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buona chiusura del giornale. Grazie a voi, buonasera. Ciao Alberto. Ed eccovi le notizie di nuovo brevemente, Roberto Giordano sempre con voi. Partiamo dall'economia e dalla crisi, con l'OCSE che avverte l'Eurozona si ferma, il rischio per la crescita mondiale, l'Italia è addirittura in fondo alla classifica dei paesi del G20. Renzi dice: di fronte alla crisi non scappo, non faccio il coniglio, e oggi intanto è stato contestato la nuova sede dell'Alcatel a Vimercate. Poi le nomine del Parlamento, per la consulta eletta Silvana Sciarra al Consiglio Superiore della Magistratura, passa Alessio Zaccaria indicato dal Movimento 5 Stelle. Eni, accordo raggiunto su Gela, sono salvi i posti di lavoro. Per il maltempo, grandine e vento forte su Roma, disagi in tutta Italia. Per il calcio avete sentito, serata di Europa League con il Torino che ha perso in Finlandia per 2-1, l'Inter ha pareggiato col Saint-Étienne, intanto ci sono Fiorentina e Napoli in campo, mi pare tutte e due, sì, 0-0. E a proposito di maltempo, ieri ne parlavamo con gli esperti, dicevano che sarebbe sceso poi verso il centro-sud, già aveva colpito la Toscana, soprattutto pesantemente Carrara, e l'allerta maltempo in Toscana continua sino alle 15 di domani. Il livello di attenzione più alto resta nel bacino dell'Albegna, nella Maremma meridionale, però oggi c'è stata l'emergenza meteo soprattutto sulla capitale, su Roma, una bomba d'acqua piovuta su Roma, una violenta grandinata alla nuova linea C della metropolitana già allagata. A che punto siamo? Lo chiedo a Estella Marino, buonasera. Buonasera. Che è assessora all'ambiente e alla protezione civile del comune di Roma. Mi sembra che domani le scuole dovrebbero rimanere aperte, quindi forse è un po' rientrato questo allarme. Sì, diciamo dagli ultimi bollettini del centro funzionale della regione Lazio di stasera, però insomma già da stamattina, poi da oggi a pranzo, poi confermati stasera, il codice rosso è esteso fino alla nottata, ma poi già dalle prime ore di domani mattina ci dovrebbe essere un abbassamento di livello di intensità e quindi un codice arancione, quindi domani mattina dovrebbe rientrare la situazione. Per questo motivo nelle riunioni in prefettura poi si è data disposizione ovviamente di apertura delle scuole per domani, perché non c'erano più le criticità che invece si sono registrate nella giornata di oggi, quindi domani dovrebbe rientrare durante la giornata nella normalità. Che danni più o meno ci sono stati oggi? Quali sono stati i disagi più grossi? Sì, abbiamo avuto tanti fenomeni di pioggia molto intensa stamattina, poi una pausa all'ora di pranzo e poi abbiamo ripreso il pomeriggio, ancora adesso abbiamo ad intermittenza vari fenomeni. Per questo motivo abbiamo avuto oltre 150 allagamenti diffusi in varie parti della città, soprattutto stradali, quindi non hanno coinvolto abitazioni, e siamo intervenuti molto velocemente. La protezione civile aveva la sala COC già aperta dalle 21 di martedì, e quindi avevamo comunque già in zona tutti gli operatori della protezione civile e tutti i volontari, che fra l'altro colgo l'occasione per ringraziare, perché ormai sono 48 ore che stanno alternandosi e lavorando. Abbiamo avuto oltre 200.000 chiamate alla sala della protezione civile e poi circa una sessantina di interventi per la messa in sicurezza e la rimozione di alberature. Quindi diciamo, questo è il complesso delle iniziative. La zona più colpita è stata la zona est, e tant'è che in questo momento le due uniche criticità sono nel municipio Sesto e nella zona di Corcolle. Quindi tanti disagi, molti richieste di interventi della protezione civile, però tutto sommato possiamo dire che la situazione è abbastanza rientrata, è sotto controllo, ma senza grandissimi danni. Possiamo dire che nonostante l'intensità della pioggia, che come previsto è stata alta, fra l'altro in certi punti abbiamo raggiunto i 100 mm alle 8 di stasera e sta continuando a piovere, tutto il sistema di previsione e di prevenzione, di posizionamento prima insomma che dell'arrivo dei fenomeni ha funzionato, perché avendo le squadre ovviamente tutte sul territorio gli interventi sono stati molto rapidi. Devo dire che oggettivamente anche la scelta della chiusura delle scuole nella giornata ha aiutato, perché il minor traffico veicolare ha permesso degli interventi molto più rapidi, e questo significa ovviamente risolvere in poco tempo delle situazioni che possono essere semplicemente di pompaggio dell'acqua o di rimozione di alberature. Grazie assessora Marino, buona continuazione allora. Grazie a voi. Rieccomi con voi. Stavo guardando questa notizia che riguarda Moscovici o Moscovici francese. Aspettate che lo vado a riprendere, questa agenzia. Allora, bisogna rispettare le regole, non possiamo esagerare con la creatività ma usare la flessibilità nel patto. Questo lo dice il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici, risponde in questo modo a chi gli chiede un'opinione sulla proposta di Renzi di scorporare gli investimenti dal calcolo del deficit. Quindi ci sono varie risposte anche di un altro commissario, che poi se abbiamo tempo leggeremo. Insomma, stanno reagendo alle... questa è un po' la risposta che continua tra il governo italiano e l'Unione Europea. Vi ricordo però le altre notizie, che sono appunto il Renzi che oggi ha detto all'ANCI il patto del Nazareno scricchiola, io non scappo di fronte alle difficoltà, parla di una local tax dal 2015, oggi c'è stato un lancio di uova nella sua visita all'Alcatel di Vimercate. Poi l'accordo sulla consulta regge a metà, passa solo Sciarra, sale la tensione sull'Italicum intanto, e la ministra Boschi dice avanti anche senza Forza Italia. E poi abbiamo sentito l'avvertimento dell'Ocse che dice che l'Eurozona non cresce ed è un rischio per tutto il mondo, la bomba d'acqua su Roma di cui abbiamo appena parlato, e poi l'Eni di Gela che diventa verde, salvi i posti di lavoro, Montezemolo che diventa presidente di Alitalia. Europa 24 notte. Sarà Paolo De Castro il referente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo per i negoziati di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti attualmente in corso. Intervistato da Maria Luisa Pezzali, De Castro racconta gli obiettivi, le criticità e le opportunità del suo mandato. Con questa elezione al relatore permanente, la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo ha voluto indicare un referente unico per poter avere accesso a tutte le fasi del negoziato e naturalmente poter verificare che lo stato d'avanzamento garantisca quel rispetto a quegli standard di qualità e a tutte le preoccupazioni che sono state oggetto dei nostri dibattiti. Ma naturalmente al tempo stesso mettere chiaramente in luce quelle che sono le grandi opportunità di questo negoziato commerciale. L'Europa è un grande esportatore di prodotti agricoli e alimentari negli Stati Uniti, abbiamo una bilancia attiva di oltre 6 miliardi di euro all'anno, in forte crescita negli ultimi anni, e quindi naturalmente vogliamo rendere partecipe tutto il Parlamento di queste opportunità. Che peso avrà, che peso potrà avere il settore agroalimentare europeo nel TIP, appunto nel trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti? Molto, molto, perché si sa che gran parte dei problemi sia nei confronti del Congresso americano che analogamente al Parlamento europeo dovrà esprimere un voto finale. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se non c'è un voto positivo del Parlamento europeo non passa nessun negoziato, così come se non c'è un voto positivo del Congresso. Ora, i risultati delle ultime elezioni midterm negli Stati Uniti mostrano un'avanzata dei repubblicani, che tradizionalmente è una forza politica più favorevole al negoziato commerciale, quindi ci auguriamo che ci sia un aspetto positivo e naturalmente valutiamo con molto interesse quelle che sono le varie barriere, perché contrariamente a quello che si crede gli Stati Uniti impongono diverse difficoltà ai nostri prodotti, barriere tariffarie, non tariffarie, problemi sanitari. Noi davvero potremmo far crescere i nostri 3 miliardi di euro che esportiamo tutti gli anni negli Stati Uniti di prodotti alimentari, potrebbero davvero raddoppiare se noi potessimo trasformare questo negoziato in una liberalizzazione per i nostri prodotti, naturalmente con molta attenzione a non perdere nulla di quei passi avanti che l'Europa ha fatto sulla qualità e sugli standard dei nostri prodotti. Lo ha ricordato lei, tra Europa e Stati Uniti ci sono standard qualitativi molto diversi, pensiamo solo alla ricchezza del prodotto agroalimentare italiano, ai disciplinari di produzione e poi a mille altri aspetti. Sotto il profilo della tutela del consumatore questo deve preoccupare, l'allerta, insomma la vigilanza resterà alta? Ma non c'è dubbio che il negoziato commerciale può rappresentare anche in materia di tutela dei nostri marchi una occasione importante. Ricordiamo che l'accordo commerciale con il Canada, che si è appena concluso dopo anni di negoziato, ha avuto il grande merito di un riconoscimento di oltre 150 denominazioni d'origine. Se oggi il nostro prosciutto di Parma può entrare nel mercato canadese senza cambiare marchio, come ahimè e succedeva negli anni scorsi, questo lo dobbiamo all'accordo commerciale col Canada. Quindi assolutamente anche per il riconoscimento e la tutela dei nostri marchi i negoziati commerciali sono l'unica strada possibile, perché se no gli americani non sono obbligati a rispettare le regole europee, loro rispettano le loro regole, quindi se noi vogliamo la tutela dei nostri formaggi, dei nostri vini, abbiamo bisogno che nell'accordo commerciale ci sia un'attenzione a un riconoscimento reciproco e naturalmente questo lo dobbiamo fare con molta attenzione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora, come vi avevo annunciato all'inizio, intanto ho visto che Renzi è arrivato circa 20 minuti fa alla cena di cui abbiamo parlato stasera per raccogliere fondi, c'è un ascoltatore che dice, Roberto da Milano, che goduria vedere Renzi che sta distruggendo il PD anche con l'aiuto di queste cene per soli miliardari, altro che salamelle, feste dell'unità. Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buonasera, buonasera. Enrico Pagliarini conduce 2024 il venerdì alle 22 subito dopo Effetto Notte, quindi domani sera, ve lo ricordo. Però adesso parliamo di una novità che riguarda WhatsApp, il sistema di messaggistica veloce che impazza per tutto il mondo, che ha fatto arrabbiare gli utenti. Perché? Allora, cosa è successo? È stata introdotta una novità senza tanti annunci, è una novità che quasi tutti, perché non è ancora diffusa al 100%, comunque quasi tutti si sono ritrovati all'interno dell'applicazione sullo smartphone che sostanzialmente ti dice se il tuo interlocutore, se la persona alla quale hai scritto un messaggio, ha letto effettivamente quel messaggio. Fino all'altro ieri tu scrivevi, facciamo un esempio, insomma, io e te ci scambiamo messaggi con WhatsApp, quindi io ti scrivo una cosa, tu mi rispondi, però ad un certo punto magari io ti scrivo una cosa e Non voglio far sapere che l'ho letta, magari esatto, voglio prendere tempo. Esatto. Allora, fino all'altro ieri io non sapevo se tu effettivamente sapevo che il sistema aveva recapitato il messaggio, però non potevo sapere se tu effettivamente avevi letto questa cosa. E da oggi invece mi appare un piccolo segno che da verde diventa blu, e quando diventa blu il sistema dice: guarda che Roberta ha letto effettivamente il messaggio. Accidenti, quindi tu lo sai. Quindi vabbè, allora diciamo anche che praticamente tutte le applicazioni concorrenti di WhatsApp già avevano questa possibilità. Quindi, scusa Enrico, ti faccio una domanda, ma che necessità c'è se la gran parte della gente non gradisce? Perché devono introdurla così senza avvisare, senza chiedere il consenso? Allora, intanto è una cosa che gli altri avevano già, e quindi diciamo che WhatsApp si adegua a quello che succede nella concorrenza. Vedremo se i casi sono vari. Allora, o quelli di WhatsApp di fronte a queste proteste, perché la protesta, spieghiamo, perché hanno protestato? Perché si invade un po'. Diventa una questione di privacy. Uno potrebbe anche dire: vabbè, ma chi se ne frega. Comunque, ci sono state un po' di proteste online, in rete, molti utenti insomma non hanno gradito, e vedremo se ci potrebbe anche essere un upgrade per cui tu puoi disabilitare questa cosa, potrebbero tornare sui loro passi, ma io non penso che anche a me pare strano. Tutto si risolverà. Enrico, magari ci aggiorniamo domani quando lanciamo anche il tuo programma, magari uno dei temi che tratterai domani sera. Intanto grazie Enrico Pagliarini. Grazie a voi, buona serata. Ciao Enrico, noi ci sentiamo tra poco.